Nel giardino dell'amore io ti guiderò, l'albero del male là e sorride a noi. Vedo già gli occhi tuoi che nel buio cercano le strade senza nome. Il tuo corpo cerca il mio e si brucerà come una farfalla che verso il fuoco va. Ora non dici più, voglio andare via di qui. La tua mano sta tremando mentre stringi la mia mano. Nel giardino dell'amore sei entrato tu. Nel giardino dell'amore ha generato un nuovo fiore. Nel giardino dell'amore. Resta qui steso accanto al mio, la tua bocca sulla mia canta una poesia. Oramai non sai più chi sei tu né cosa vuoi. Il cuscino sembra un cavo dove il vento si è fermato. Nel giardino dell'amore ti sei perso tu. Nel giardino dell'amore ti sei perso tu. Nel giardino dell'amore.